Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. È un coro di no quello che si leva dal mondo dei consumi sul previsto aumento di un punto dell'IVA deciso dal governo con la legge di stabilità, un rincaro che peserà sul carrello della spesa, quindi sulle famiglie e sul loro potere d'acquisto, già in picchiata. Cercheremo di capire quanto e come in tutta questa prima parte. Per il focus sui trend, spazio invece a orti e giardini. La gardening mania è la tendenza del momento, ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità di questa settimana. Una pizza extra large gratis a settimana per i prossimi 30 anni. O in alternativa, un assegno di $15,600. È il premio che la catena di pizzerie Pizza Hut ha messo in palio a chi avrà l'ardire di fare ai due candidati della Casa Bianca, durante il prossimo dibattito presidenziale, la fatidica domanda: sulla pizza preferite salame o salsiccia? Stilisti e designer sbarcano nel mondo dei libri. Dopo Karl Lagerfeld, anche Marc Jacobs, dopo le librerie a insegna Bookmark già inaugurate a New York e Los Angeles, punta ad aprirne altre due a Londra e Parigi e già progetta l'espansione anche a Chicago e Tokyo. Yux.com è pronto al lancio della sua nuova sezione Art at Yux, nella quale sarà possibile acquistare online una selezione di opere di artisti noti ed emergenti. Il progetto partirà con le limited edition degli artisti Grayson Perry e Damien Hirst. Una comunità di recupero per emarginati come sponsor sulle maglie di una squadra di basket. Succede a Genova. Protagonista la comunità di Don Gallo e le cestiste della New Basket Asena. Sulle sopramaglie sarà stampata anche la scritta «Dimmi chi escludi e ti dirò chi sei». Non bisognerebbe mai smettere di giocare, soprattutto quando si diventa grandi. Il gioco è una cosa seria. Aveva fatto di questa frase una filosofia di vita Mario Clementoni, l'uomo dei giocattoli. Se n'è andato qualche giorno fa. Aveva 87 anni. La borsa della spesa porterà un aggravio medio annuo di €256 a famiglia. L'aumento dell'IVA dal 10 all'11% e dal 21 al 22% deciso dal governo a partire dal prossimo luglio, un aggravio solo in parte compensato dalla riduzione delle prime due aliquote IRPEF. Ecco quanto peserà sul carrello della spesa. €182 per un single, €338 per una famiglia di 4 persone. Peserà più sui consumi delle famiglie l'aumento dell'IVA. Anche l'effetto combinato tra IRPEF e IVA inciderà di più sulle coppie con figli. Per una famiglia media, il rincaro varrà circa €21 al mese, mentre i nuclei monofamiliari, single ma anche anziani soli, avranno un aggravio di circa €15. In un anno la famiglia media spenderà €13 in più per la carne, 5 per il pesce e le bevande, 4 per caffè, gelati e zucchero, €1,50 in più per acqua e vino. Salvi invece pane, pasta, latte, ma non quello a lunga conservazione, formaggio, frutta e verdura. L'aumento sulle bollette di luce e gas sarà di €15. Anche per vestirsi si spenderanno €11 in più. Portafoglio più magro anche per alberghi e viaggi, più €6, barbiere, parrucchiere, €3, telecomunicazioni e medicinali, €5. Tasto dolente, trasporti e benzina, dove il rincaro IVA potrebbe arrivare a €42. Tutto questo con un potere d'acquisto calato di quasi il 12% negli ultimi 4 anni. L'84% dei consumatori che dichiarano di aver cambiato le proprie abitudini all'insegna del risparmio e oltre il 2% di calo nelle vendite dei beni di largo consumo. La notizia dell'aumento dell'IVA ha monopolizzato le conversazioni a margine del 6° Consumer and Retail Summit organizzato da Sole 24 Ore in collaborazione con Markup e GDO Week. Un'occasione occasione di confronto con molti protagonisti del mondo dei consumi. Iniziamo con Rosario Trefiletti, presidente di Federconsumatori. Questa manovra di aumento dell'IVA, che già segue quell'altra manovra di aumento dell'IVA, avrà un effetto dirompente se fatta. Noi ci auguriamo che non si faccia, anche perché una ricaduta dell'IVA sui carburanti e sull'energia in generale sarebbe francamente esiziale per ogni minimo spiraglio di incremento del mercato e quindi anche delle produzioni, ovviamente. Quindi nettamente contrario. Questo mini taglio dell'IRPEF in molti già dicono che ha molto il sapore politico di annuncio e dal punto di vista poi concreto, tecnico, compenserà poco. Sono perfettamente d'accordo, è un'inezia, ma oltretutto io sono anche contrario a una riduzione dell'IRPEF, perché io sono perché se si devono fare delle detassazioni si facciano e certamente vanno fatte, ma però chi ha reddito fisso, fare un'operazione sulla curva dell'IRPEF significa anche restituire, detassare anche chi fa evasione o elusione fiscale. Compatto anche il mondo della GDO, sentiamo Vincenzo Tassinari di Coop, Fabio Sordi, Auchan e Francesco Pugliese di Conad. Credo che sia una manovra sbagliata nei confronti dei cittadini, dei consumatori, perché si innesta in una tempesta perfetta nella quale le famiglie italiane sono invase, il potere d'acquisto che è in diminuzione, un'inflazione che nessuno tiene di conto, che comunque sui prodotti di prima necessità sarà superiore al 6%. Se in questo ci mettiamo anche l'aggravio dell'IVA, che è un'imposta indiretta, quindi per definizione è la più ingiusta perché colpisce le famiglie meno abbienti, quindi colpisce quei 20 milioni di famiglie a reddito basso, medio basso e medio, che invece dovrebbero essere sostenute. Credo che se invece una politica economica vuole vedere il rilancio dell'economia, dovrebbe puntare al rilancio dei consumi. Questa manovra è tutt'altro che in quella direzione. Noi pensiamo che l'aumento dell'IVA vada bloccato, non ci debba essere. Abbiamo già vissuto il primo momento, è stato per noi drammatico in termini di contrazione dei margini e contrazione delle vendite, e quindi non ci vuole assolutamente un momento di depressione come questo. Andando sul carrello della spesa, che cosa state osservando nei vostri consumatori? Ma sicuramente c'è uno spostamento sulla private label e sui primi prezzi, ma non solo sui primi prezzi, anche su private label di alta qualità. Quindi c'è il cosiddetto effetto clessidra, non più soltanto come segmentazione di persone, cioè le persone meno abbienti che comprano primi prezzi, le persone più ricche che comprano prodotti di alto valore, ma anche le stesse persone che per alcuni prodotti a basso valore aggiunto comprano prodotti di primo prezzo e quando si vogliono gratificare comprano un prodotto ad alto valore aggiunto, come per esempio non so, le paste speciali piuttosto che dei sughi speciali, mentre invece su altri prodotti più basici, la carta, prodotti a base di alluminio, si spostano su prodotti appunto di primo prezzo. Che questo aumento di IVA comporterà un freno nell'ambito dei consumi, questo lo sappiamo, lo sa anche il governo. Però io le devo dire una cosa, che alla luce di quello che sta avvenendo in questo momento in termini di richieste di aumento di listine da parte dell'industria, che sono ponderalmente del 6%, tanto 6, tanto 7, alla fine andrà male comunque se dovesse passare quel 6. Quindi forse il male minore, perché ogni volta abbiamo l'abitudine di scaricare su altri, soprattutto dice piove governo ladro, no? E quindi prendercela con il governo. Beh, se utilizzano bene quell'uno, come hanno detto, andando a detassare sui redditi che sono minori e quindi ridando un po' di fiato a quelle che sono le famiglie che hanno più bisogno, è meno pericoloso quello del 6% di inflazione che stiamo leggendo sugli incrementi di listino da parte dell'industria. Incrementi di listino che pescano su un consumatore ormai allo stremo. Direi non su un consumatore che è allo stremo, ma che è oltre la frutta, che ha passato il digestivo e oramai deve prendere qualcosa invece contro la gastrite, perché in realtà sta mangiando veramente poco. Dall'urban farming al guerrilla gardening, siete pronti ad armarvi di guanti, cesoie e rastrello? Restate con noi perché nel Focus sui Trend parliamo di gardening mania, tra pochissimo. Essere e avere. Let me take you down, cause I'm going to strawberry field. Di nuovo in studio con Essere Avere, seconda parte dedicata come sempre al focus sui trend in compagnia della nostra esperta di nuove tendenze, Patrizia Martello di Memetti Club. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno a tutti. Gardening mania, il tema di oggi. Parliamo di una tendenza ormai imperante, trasversale a fasce d'età, classi sociali e settori. Orti e giardini, un po' come la bicicletta, sono diventati l'oggetto simbolo di nuovi stili di vita all'insegna dell'ecosostenibilità, del risparmio e di nuovi modi di vivere la città. Oggetto di libri, corsi, laboratori, dagli orti urbani a quelli domestici, dal guerrilla gardening alla garden therapy. E non sono immuni i ristoranti, i negozi, i videogiochi. Alla gardening mania si rifanno anche molte tendenze nella moda, nel design, nell'architettura, fino addirittura all'educazione e alla formazione aziendale. Patrizia. L'orto oggi, insieme alla bicicletta, è un simbolo delle nuove culture ed estetiche verdi legate alla rinaturalizzazione della vita del quotidiano, all'ecosostenibilità, ma anche legati a comportamenti funzionali al risparmio. In questi anni le città si sono riempite di palazzi con pareti verdi verticali ornamentali, un copyright di Patrick Blanc, questi muri vegetali, appunto giardini senza suolo, che hanno tappezzato edifici pubblici e privati, ma non solo. L'architettura è diventata agritettura con progetti pionieristici che hanno stupito il mondo, come Sky Farm a Toronto, 59 piani studiati per ospitare appartamenti e coltivazioni a idrocultura. E le città sono state invase anche dal guerrilla gardening, le azioni di gruppi di ecogiardinieri urbani o attivisti che hanno lanciato un po' ovunque le seed bombs, le bombe di semi per far fiorire aree dismesse, piccole interstizi tra le strade, insomma zone incolte della città, piccole zone incolte della città. E poi è spuntato il concetto di city farm, cioè la città che coltiva, quindi un modello un po' futuribile di città che produce parte del cibo fresco che consuma, ma anche metaforicamente legata all'immaginario della campagna, del mondo rurale, che sempre più è entrato e sta entrando nei contesti urbani con orti e giardini condivisi e gestiti da cittadini e enti pubblici, con esperienze socialmente evolute come a San Francisco, di assegnazione di terreni da coltivare ai senza tetto, per esempio, con finalità quindi di recupero di spazi degradati e di aiuto agli homeless. Sono proliferati anche i farmer market, i mercati con vendita diretta dei prodotti posizionati ai confini della città, così come i veri e propri avamposti agricoli nel cuore delle città, cioè le cascine urbane, edifici vecchi, spesso semi abbandonati. Pensiamo che nella sola Milano ce ne sono 58 e la loro riqualificazione è uno dei progetti legati a Expo 2015. Gli antropologi hanno sfornato poi nuove definizioni per etichettare chi viene preso da questa ruralità, cioè chi sogna o reimposta la propria vita ricomprendendo la campagna tra le esperienze urbane. Sono i metro bucolici, cioè i metro campagnoli. Gli orti sono entrati anche nelle case, con piccole autoproduzioni di verdura e frutta da balcone. Sono più di 6 milioni gli orti ai piani alti, cioè quelli urbani su tetti e balconi, solo in Italia. E poi ci sono gli orti da interni, che sono ormai un must anche dell'interior design. Dalla sedia albero alla microserra appena proposta anche da IKEA, all'armadio da interni per coltivazioni in vendita su greentown.it. Un vero armadio orto, con ante pannelli resistenti all'acqua, acqua, ventilatore, luci, filtri, eccetera. Il giardino, il vegetale, il verde è sempre più usato anche come arredo sia nei negozi che nei luoghi di consumo. Due esempi interessanti dal food. Ristorante con orto è Erba Brusca a Milano, in fondo ai Navigli, un locale che già nel nome, ma soprattutto nel sottotitolo, racchiude il significato, la sua filosofia, cioè orto con cucina. Nel Deor si cena proprio davanti a un grande orto. E poi il negozio ristorante di erbe aromatiche, si chiama Aromaticus, è a Roma, offre piccoli menù di gastronomia takeaway, ma si può mangiare anche seduti all'interno, circondati da germogli, crescioni, alghe, fiori, eduli, peperoncini, aneto, eccetera, che si possono anche acquistare insieme ad attrezzi da giardinaggio, oggetti, sementi e simili. Oltre che essere un negozio ristorante, è anche un progetto educativo proprio per ampliare, come dicono i proprietari, la tavolozza gusto-olfattiva dei propri clienti. a riprova che coltivare è parte ormai del nostro immaginario, il protagonismo delle coltivazioni anche online, cioè le verdure virtuali con cui giocare, che hanno decretato grandi successi di videogiochi come Gardening Mama per Nintendo e intrattengono milioni di persone come contenuto dei vari social game come Farmville, Farm Town, nelle varie versioni specificamente dedicate ad animali, fiori, eccetera. Orti virtuali con verdure vere però che arrivano a casa, come nuova formula dei molti siti internet di produttori che personalizzano le consegne ai clienti sulla base dell'orto coltivato online. Uno tra i molti esempi è leverduredelmioorto.it. La gardening mania è arrivata anche in TV, prima sui canali satellitari, ora a segno evidente della sua diffusione anche nella TV generalista. L'erba del vicino, sulla 7, entra nei cortili dei condomini italiani per rinverdirne fiori e piante. E siamo alle solite. Cortili bellissimi, di grande valore storico, ma con il verde condominiale abbandonato a se stesso. Aiuole vuote, piante vecchie e mai potate. Oh, qua c'è una fontana! Bella! Addirittura i ligustri sopra. Ligustri ovunque. Beh, qui, Vittorio, di lavoro da fare ce ne sarà, eh? Va bene, direi andiamo a chiamare i condomini? Più avanti c'è il limone, si potrebbe tenere. I due limoni li teniamo sicuramente. Allora, e quello centrale, il cedro del Libano, l'avete piantato voi? Sì, sì. E come mai avete piantato un cedro del Libano proprio? Era per riproporre quello che era il progetto originario delle aiuole del condominio. Io proporrei anche del prato. Così uno raccoglie quei bei frutti al fresco. Magari scegliere poi il tipo d'agrume, perché ne possiamo mettere davvero di diversi, che ne so. Per esempio? Il kumquat, il chinotto, l'arancia amaro, il lime. Un agrumeto qui nel centro di Roma, come ce l'avrete voi, non ce l'ha sicuramente nessuno. Patrizia, verde come bene comune per la città è un concetto che si sta diffondendo. Sì, non solo si sta diffondendo, ma è un valore riconosciuto ormai dai cittadini e quindi del verde ci si vuole occupare in prima persona. In pieno spirito Occupy Green, per così dire, a Dallas il progetto Better Block Project, che organizza squadre di arredatori e attivisti urbani che irrompono i luoghi periferici o quartieri disagiati e li riempiono di piante, fiori, ma anche altro, caffetterie temporanee, servizi, eccetera. Quindi progetti trasformativi delle città tra architettura e performance, che sono da un lato fortemente simbolici ma anche legati ad azioni molto concrete per cambiare strade, piazze e quartieri, come Beyond Entropy Angola, altro progetto interessante di piantumazione di una canna comune negli slum di Luanda, capitale dell'Angola. Queste canne, che crescono fino a un metro al mese, formano non solo un giardino urbano ma filtrano le acque sporche e una volta tagliate vengono stoccate e dalla loro fermentazione si ricava biomassa. E oltre all'aspetto sociale, economico, estetico e di costume dell'orticoltura, c'è anche l'aspetto educativo, formativo, interessante. Dalle esperienze come Agrinido di Cremona, vere e proprie aziende agricole adibite ad asilo, gli orti aziendali. Le aziende cominciano a insegnare a piantare insalate e ortaggi nei programmi formativi evoluti sul benessere di chi lavora, e degno di nota è il caso Whirlpool, che offre ai dipendenti dei veri corsi di urban farming, cioè imparare a fare un orto, quindi mettere le mani nella terra, piantare, coltivare, veder crescere ortaggi vari. E il primo orto universitario d'Italia è a Milano, all'estero ci sono già esperienze illustri come Harvard e Stanford, è coltivando un orto comunitario e conviviale, questa è la definizione, all'interno del campus del quartiere Bovisa a Milano, dove si trova una delle sedi del Politecnico. Anche nella pubblicità la gardening mania è protagonista, in onda in questi giorni il nuovo spot di Calcedonia che racconta proprio il guerriglia gardening. Si vedono tre ragazze un po' pancheggianti per strada di sera, che non vanno né a una festa né in discoteca, ma trasformano un muro grigio in una parete di fiori e di foglie. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo negli Stati Uniti su Gardening Mania e dintorni? Ce lo racconta come sempre la nostra Urban Watcher Alessia Zampano di Memetic Club. Ciao Alessia. Ciao, un saluto a tutti. presto nelle città americane farà la sua comparsa The Farmery, un innovativo concept di retail che nel medesimo spazio combina la coltivazione e la vendita degli ortaggi. La struttura è molto leggera e funzionale ed è costituita da 4 container rigenerati, sovrapposti a due e posti frontalmente a delimitare al centro una serra, che è il luogo principale di vendita e di coltivazione. L'interno dei container ospita invece la coltivazione di funghi, delle più svariate specie, e le pareti esterne sono adibite alla coltivazione verticale di ortaggi e verdure con un sistema di pannelli acquaponici. La coltivazione acquaponica è quella che non prevede l'uso di terra. Questo concept è improntato alla massima trasparenza, nel senso che il cliente, quando acquista, diventa immediatamente consapevole del processo produttivo che, non prevedendo costi di trasporto, di intermediazione e di packaging, consente di praticare prezzi più accessibili, oltre naturalmente ad essere sostenibile dal punto di vista dell'impatto ambientale, senza dimenticare il valore aggiunto di riportare il consumatore metropolitano in contatto con la natura e con il cibo di cui quotidianamente si nutre. Grazie Alessia. Patrizia, siamo in conclusione. Tendenza diffusissima, ormai lo abbiamo sentito, dalla gardening mania non si torna indietro. No, il fenomeno è in crescita. I dati italiani ci dicono che un italiano su 4 si dedica alla coltivazione dell'orto. Le motivazioni sono diverse, quelle pratiche: produrre e consumare prodotti più sani e genuini, un modo per rilassarsi, un modo per stare all'aria aperta, ma ovviamente anche motivazioni legate al risparmio e all'autoproduzione. Queste nuove pratiche da giardinieri planetari, per citare Gilles Clément, che sono pratiche da un lato ecologiche, individuali, ma anche urbane, socializzanti, sono parte di un nuovo fenomeno che è stato definito agricivismo, tra svago, nuove forme di socialità e sostenibilità ambientale. Essere avere @radio24.it, scriveteci le vostre idee, i vostri suggerimenti anche sulla nostra pagina Facebook, dove troverete questa e le altre puntate di Essere avere. Dal sito radio24.it la potrete anche scaricare, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.